Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, negli ultimi giorni di vita del governo Renzi, un gruppo di associazioni no profit aveva elaborato una proposta intesa a potenziare le super detrazioni fiscali, chiamiamole così, per i condomini, che lo stesso esecutivo ha messo al centro del proprio piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. La brusca approvazione della finanziaria, però, immediatamente dopo il referendum costituzionale, ha impedito che questa proposta, che aveva anche ricevuto il parere favorevole della Ragioneria di Stato, venisse inserita in finanziaria e votata, e così probabilmente è venuta meno un'opportunità di rigenerare importanti pezzi di città e creare non pochi posti di lavoro. Tuttavia quella individuata è una strada ancora aperta, di cui ho parlato con Gianni Silvestrini, presidente del Green Building Council Italia, che promuove nel nostro paese il sistema di certificazione LEED, che è stato tra i soggetti più impegnati nel tracciarla. Sentiamo. Punti di forza e punti deboli di questo piano. Allora, sicuramente un punto di forza è il fatto di lanciare un messaggio molto chiaro, e cioè andare verso quella che l'Europa definisce deep renovation, riqualificazione spinta con riduzione dei consumi del 50, 60, 70% per ogni edificio. Questa è la vera sfida che dobbiamo affrontare, e questo messaggio che arriva dalla legge di stabilità ci dice è iniziato un percorso, è iniziato perché poi dovrà migliorare. Ecco, appunto, su che cosa bisogna invece migliorare? Beh, ci sono diversi aspetti, e sostanzialmente i punti più delicati sono: uno, il fatto della portabilità degli incentivi, che consenta effettivamente di avere le risorse per iniziare i lavori. In altre proposte che avevamo fatto, questo ruolo viene svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti. In questo caso si sperava di riuscire a coinvolgere il mondo finanziario, cioè, il mondo delle banche. Il tema, diciamo, detto brutalmente, abbiamo delle detrazioni fiscali. Le detrazioni fiscali sono adatte ad alcuni soggetti che sono, per cominciare, fiscalmente capienti, ma anche devono avere i soldi in tasca da anticipare. Qui il punto è: se noi riusciamo a trasformare queste detrazioni fiscali in un credito, questo credito poi può essere intascato da altri soggetti. Il dubbio è che questo determini debito pubblico, se ho capito bene. È qui il punto. Voi avete trovato un modo per superare questa impasse. Esattamente. Secondo la Ragioneria Generale, questa situazione avrebbe sforato il debito pubblico, e quindi non è stata accettata come possibilità quella di coinvolgere il mondo della finanza direttamente. Noi siamo convinti che invece si potrebbe fare. Questo, ma in ogni credito caso, poteva essere girato, per esempio, alle banche che di mestiere fanno quello, anticipano i soldi, no? Noi pensiamo che sarà così in futuro, ma per adesso non è così. Allora, per aggirare questo ostacolo, noi avevamo pensato di coinvolgere le utilities, il mondo dei distributori di energia elettrica e gas. E i distributori hanno le spalle abbastanza grosse per poter anticipare i capitali che servono per fare gli interventi, e così i vari condomini possono partire con i lavori. In che modo poi le utilities recuperano i soldi che hanno anticipato? Beh, da una parte dallo Stato, attraverso appunto la cessione del credito; dall'altra parte, siccome il credito non copre tutta la cifra necessaria, dal risparmio di energia, perché qui parliamo di risparmio di energia che devono essere di una certa rilevanza, almeno la metà. Quindi la bolletta si riduce, in realtà uno continua a pagare la bolletta che pagava prima, ma in questo modo restituisce un po' al mese all'utility. Esattamente. La quota che dalla detrazione porta al 100%. Esattamente. In questo modo sono tutti contenti, e anzi le utility sono particolarmente contente perché possono anche ricavare i titoli di efficienza energetica che sono obbligati a ottenere in base alla legge, grazie al fatto che ci sono dei risparmi. Quindi è un meccanismo virtuoso che sarebbe passato se l'emendamento fosse stato presentato al Senato, perché era concordato col governo. Un altro aspetto che sembra rilevante, diciamo, è il criterio minimo, diciamo così, col quale si accede a questi incentivi particolarmente favorevoli, no? Per accedere a incentivi così favorevoli bisogna, come diciamo prima, passare a una riqualificazione spinta, il che significa che si deve intervenire sia sulla parte impiantistica che sull'involucro. La dizione che c'è adesso nella legge parla solamente del 25% dell'involucro, non è da riqualificare. Noi pensavamo di introdurre una classe minima di efficienza da raggiungere, eventualmente anche una superficie di involucro superiore al 25%, potrebbe essere il 30, il 40%. In questo modo avremmo garantito che effettivamente venivano finanziati interventi che vanno nella direzione di una riqualificazione spinta. Anche qui c'è un problema, per cui da un lato, come dire, l'efficientamento può essere essere ottenuto riducendo la domanda di energia dell'edificio e dall'altro fornendogli energia con dei sistemi più efficienti. E un po' la partita è fra queste due cose, che non devono andare in alternativa ma devono andare insieme. È un po' questo il punto. Devono assolutamente andare insieme. Dirò di più, che poi per andare, volendo, si potrebbe andare per edifici di una dimensione non elevata anche a riduzioni più drastiche dei consumi grazie all'introduzione di fotovoltaico sulle coperture. Ma questo oggi, come sappiamo, non è possibile. Cioè un fotovoltaico a livello condominiale non è possibile, perché le norme attuali non consentono, se non per utilizzare l'energia elettrica per gli ascensori e l'illuminazione. Questo è un passaggio che andrà col tempo assolutamente aperto, perché potremmo avere un'enorme capacità fotovoltaica da installare, che servirebbe proprio per gli impianti, pompe di calore. Tra l'altro è molto più facile fare autoconsumo in un condominio, detto brutalmente, perché ci sarà sempre qualcuno che sta consumando energia rispetto alla villetta, per capirsi, no? Assolutamente, questo è anche uno dei motivi per cui c'è una forte resistenza. Anch'io questo sospetto. Grazie. Grazie a voi. È tutto, torniamo in studio per salutarci, darci appuntamento a domani. Buona serata.